New Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Raffaele. Cognome: Fitto. Età: 46. Nato a Maglie, provincia di Lecce. Eletto in la circoscrizione del Sud Italia. Con quanti voti? 284.712. Partito politico: Conservatori e Riformisti. Gruppo politico: Conservatori e Riformisti. Segni particolari: Nessuno. Quante lingue parla? Italiano e inglese, ma sto studiando, da migliorare sicuramente. Competenze europee in 10 parole. Capo della delegazione dei Conservatori e Riformisti, componente della Commissione Controllo di Bilancio, Affari Esteri, e seguo con molta attenzione la politica regionale. Immigrazione, come si struttura l'integrazione? No, innanzitutto accogliendo solamente chi può essere veramente assorbito dal nostro mercato del lavoro. Gran Bretagna, dentro o fuori l'Unione? Dentro, ma in un'Europa completamente diversa, e quindi accogliendo la rinegoziazione, i punti che Cameron ha posto. L'Europa e lo strapotere delle banche, realtà o esagerazione? Ma proponiamo da mesi una moratoria del bail-in, siamo contrari ai salvataggi di Stato e quindi con il bail-out, e riteniamo che tutto questo andava preparato. I tre paesi più forti in Europa? Ma direi Inghilterra grazie alla sua crescita economica, la Germania grazie a tante cose compresa la sua prepotenza, l'Italia potrebbe stare fra i tre se superasse una vecchia visione della politica che purtroppo la sta caratterizzando. Ha fatto il ministro in Italia, dove le piace di più fare politica? Sicuramente sul mio territorio, ma penso che sia altrettanto importante essere presente nei momenti decisionali a Bruxelles. Farà mai pace con Berlusconi? Ma il problema è che Berlusconi deve fare pace con se stesso e con i tanti errori che ha fatto in questi ultimi anni. Come si conciliano le realtà regionali con la struttura europea? Ma si conciliano intervenendo in modo concreto su una maggiore legittimazione ed evitando che l'Europa possa avanzare sulle responsabilità fiscali a danni degli Stati. In sintesi, il senso del suo ruolo al Parlamento europeo? Ma un ruolo finalizzato a cambiare profondamente questa Europa, perché così come l'Europa certamente non può piacere e non può andare avanti bene. Doppia sede del Parlamento UE, Strasburgo e Bruxelles, necessaria? Il mio gruppo è l'unico gruppo che ha proposto concretamente con atti chiari la soppressione della sede di Strasburgo. Come si fa ad essere conservatori e riformisti allo stesso tempo? Come lo fa per esempio il premier inglese Cameron, con una politica fortemente innovativa e riformista, mantenendo la sua posizione politica da partito conservatore. Sulle unioni civili, più conservatore o riformista? Sia una cosa che l'altra, va bene le unioni civili perché è giusto riconoscere i diritti, assolutamente contrario alle adozioni. Tre aggettivi che la descrivono: responsabile, testardo e sensibile. Un voto all'Europa da 1 a 10. In questo momento un voto bassissimo, direi 4. Newzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.